America 24 di Mario Platero. Bisognerebbe togliere l'iniziativa. Tutto questo affinché si arrivi a un certo momento a una discussione politica. Una soluzione militare è troppo temporanea e non è oggi ed è percepita come una soluzione in Afghanistan. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Avete sentito una dichiarazione fatta appunto ai microfoni di America 24 di Stéphane de Mistura. Parlava di soluzione politica per l'Afghanistan. Lo abbiamo intervistato un paio di settimane fa per cercare di avere un po' il polso, il quadro della situazione. Ve lo ricordo, de Mistura è il rappresentante personale del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon a Kabul, dunque è la massima autorità multilaterale. Ebbene, perché vi ho fatto riascoltare questa sua dichiarazione? Perché proprio ieri in prima pagina il New York Times dava una notizia, e cioè che gli Stati Uniti stanno aiutando leader anziani dei talibani a cominciare dei negoziati di pace con il governo afghano a Kabul. Questo è l'attacco del pezzo. La situazione dunque in evoluzione, questo messaggio molto chiaro che ci aveva dato Stéphane de Mistura in una lunga intervista in cui suggeriva l'importanza della soluzione diplomatica come unica possibilità per raggiungere una pace stabile e soprattutto di un negoziato con i talebani, direi che diventava questo l'obiettivo centrale da qui al post-offensiva che in questo momento è in corso in Afghanistan a Kandahar. Ecco, l'articolo di ieri ci dà notizia di questa apertura americana, anche se l'opinione pubblica degli Stati Uniti resta contraria. L'opinione pubblica degli Stati Uniti resiste all'idea di aprire un dialogo con i talebani, cioè con i complici di Osama Bin Laden, prima dell'attentato dell'11 settembre. Dunque, in qualche modo si entra in quella fase che avevamo discusso allora, la fase dei due binari. Da una parte va avanti l'attacco militare per togliere, come diceva De Mistura, l'iniziativa ai talebani, dall'altro invece il binario del negoziato politico. Oggi per l'America è una giornata importante perché il 15 d'ottobre è l'ultima scadenza per fare le dichiarazioni fiscali, le dichiarazioni dei redditi. La prima è il 15 d'aprile, credo che lo sappia ormai tutto il mondo. Entro quella data bisogna comunque inviare le stime di quello che si deve pagare al fisco americano. Dopodiché c'è tempo per fare degli aggiustamenti e per fare la vera e propria dichiarazione fino appunto al 15 di ottobre. Gli agenti del fisco americani sono ovviamente impegnatissimi. Un grande cervellone riceverà tutte queste dichiarazioni che la gente finisce per spedire così fino all'ultimo istante, quindi fino alla mezzanotte del 15, e io approfitto di questa data molto particolare per salutare un ospite molto speciale che ho con me in studio. Eliana Di Caro, inviata del Sole 24 Ore qui a New York, è venuta a trovarci durante l'estate, ha fatto dei servizi molto buoni. Soprattutto, Eliana, buongiorno intanto. Buongiorno Mario, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, soprattutto Eliana l'altro giorno è andata upstate New York, quindi a nord dello stato di New York, per scovare niente meno che Serpico. E l'idea qual era stata? L'idea è che da noi, sempre in materia fiscale, c'è questo grandissimo nuovo cervellone anti-evasione che è stato battezzato dai nostri agenti delle tasse Serpico. E dunque, Eliana, che hai fatto? Sei andata a cercare Serpico, il vero Serpico. Esatto, sono andata a cercare Frank Serpico per chiedergli cosa ne pensa di questa idea appunto del governo italiano di battezzare questo database con il suo nome. E la cosa non era facile perché Serpico vive quasi in isolamento in un paesino molto piccolo upstate New York, però è stata un'avventura. Adesso ci racconterai l'avventura, prima però vorrei raccontare chi è Francesco Vincent Serpico, perché alcuni di voi lo ricorderanno, ci fu un film ormai famoso dedicato a lui nel 73, protagonista Al Pacino, e il film inizia con questa immagine di questo agente di polizia col volto coperto di sangue. Gli avevano sparato durante uno sting che avevano fatto contro dei trafficanti di droga, se non che i suoi compagni poliziotti non lo avevano aiutato. Perché? Perché Serpico aveva deciso di denunciare la corruzione a tutti i livelli e quindi collaborò con questa commissione d'inchiesta, la commissione NAP, e divenne una leggenda. Ecco, fatto questo preambolo, Eliana, raccontaci come si fa a trovare Serpico. Io avevo dalla mia parte soltanto una parola, che è Harlemville, che è il nome del paese in cui Serpico vive. Quindi l'unica via appunto era andare direttamente sul posto e provare a cercarlo lì. Ecco, allora parliamo di Upstate New York. Allora spieghiamo un minuto ai nostri ascoltatori che cos'è Upstate New York. Perché voi quando si parla di New York si immagina la grande metropoli, si immagina la città di New York, si immagina Brooklyn, si immagina insomma questa grande area metropolitana. In realtà lo stato di New York è grande quanto l'Italia e si estende al nord, arriva addirittura fino al confine col Canada, alle cascate del Niagara. La capitale Albany è appunto molto a nord, a 4 ore e mezzo di macchina da New York, e lì vicino c'è Harlemville, un posto sperduto, ci sono campi, ci sono boschi, insomma è un posto davvero alquanto isolato. E dunque tu hai preso una macchina e sei andata a nord. Esatto, sono riuscita ad arrivare ad Harlemville, che è una strada alla fine. Cioè... Ecco, e lì a un certo punto, dopo varie peripezie, trovi Serpico. Com'è Serpico oggi? Quanti anni ha? Raccontaci. Allora, Serpico ha 74 anni, è una persona molto simpatica, in realtà d'impatto, gli piace parlare l'italiano perché lui ha origini campane, è nato, cioè i suoi genitori erano di Marigliano, vive in una casetta praticamente immersa in un bosco, quindi io sono riuscita attraverso la gentilezza della gente che mi ha aiutato a recuperare il suo numero di telefono e a sentirlo per telefono, e lui è stato disponibile a incontrarmi e così abbiamo fatto questa intervista. Ecco, e quando tu gli hai detto che in Italia il nuovo cervellone era stato dedicato a lui e si chiamava Serpico, come ha reagito? Ma non si è scomposto per niente, perché in realtà il nome Serpico è associato, mi ha spiegato, ai prodotti più svariati, cioè ci sono dei vini, degli occhiali da sole, delle agenzie investigative. E tutte dedicate a lui, cioè tutti, sì, attraverso... si chiamano Serpico. Beh, allora è un business, quindi lui avrà un diritto su questo, sull'utilizzo del nome. In realtà mi ha spiegato di no, lui vive veramente in isolamento. Beh, se no poi dobbiamo chiedere all'ufficio delle imposte se hanno pagato, no, che infatti... perseguitano tutti se hanno pagato per usare il nome, perché c'è un trademark. E infatti io gli ho chiesto se intende fare causa all'Agenzia delle Entrate Italiane per questa così idea che hanno avuto senza interpellarlo. Mi ha detto di no, che l'importante è che il suo nome venga associato a oggetti o cause nobili che rispettino i suoi valori, e questa sembra proprio di sì. Bene, dunque oggi 15 di ottobre, data di scadenza delle tasse americane, il nostro fisco è stato salvato da Serpico, che, come ci riferisce la nostra Eliana, rinuncerà a far causa per mancato pagamento di diritti d'autore. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Julian Auction, una notizia di ieri, ha deciso di mettere all'asta una lettera di Kurt Cobain, che era il leader dei Nirvana, molti di voi lo ricorderanno, che morì suicida nel 94. Questa lettera fu recuperata di recente, e l'interesse qual è? Che Cobain attaccava il canale televisivo MTV accusandolo di avere un monopolio per il controllo della sua musica. Dunque un piccolo giallo, e comunque vedremo quanto questa lettera recupererà. Dedichiamo dunque la canzone a Kurt Cobain dei Nirvana, Polly. Polly wants a cracker, think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!